qui, qui con noi. Gli angeli, qui a proteggerti dalle ingiurie, dagli abissi, e cantano, cantano. Pace, che sia pace in ogni uomo, in ogni mondo, in ogni terra di cielo, di fango, in ogni briciola del tuo parlare, per coloro che sanno donare la loro vita per un ideale, che sia di pace il tuo divenire, il tuo presente, il tuo volere, dall'alba boreale alla luce del tramonto. Sono qui, qui con noi, gli angeli, qui a proteggerti. Abbracciare i tuoi sogni, a perdonare. Pace, che sia pace in ogni uomo, in ogni mondo, in ogni terra di cielo, di fango, in ogni briciola del tuo parlare, per coloro che sanno donare la loro vita per un ideale, che sia di pace il tuo divenire, il tuo presente, il tuo volere. Sono qui sempre con noi, sono qui, qui con noi, gli angeli, qui a profumare il nostro grano. Pace, che sia pace in ogni uomo, in ogni mondo, in ogni terra di cielo, di fango, in ogni briciola del tuo parlare, per coloro che sanno donare la loro vita per un ideale, che sia di pace il tuo divenire, il tuo presente, il tuo volere.